Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. È andato a Rainer Weiss, Kip Thorne e Barry Barish il Nobel per la fisica 2017. I tre scienziati lo hanno ricevuto per i contributi decisivi dati alla realizzazione dell'esperimento LIGO e all'osservazione di conseguenza delle onde gravitazionali, avvenuta per la prima volta nel 2015 dopo decenni di lavoro sperimentale. È stata anche una delle notizie di scienza che ha più colpito l'immaginazione del pubblico ed è stato un successo a cui ha contribuito anche l'Italia, che ospita Virgo nelle vicinanze di Pisa, che è uno dei tre osservatori di onde gravitazionali esistenti al mondo. Ed è proprio lì, nella control room di Virgo, che stiamo per portarvi per incontrare Antonino Chiummo, ricercatore del consorzio dell'Osservatorio Gravitazionale Europeo, che appunto gestisce l'esperimento Virgo. Chiummo, buonasera. Buonasera a lei e buonasera a tutti. Allora, senta, intanto le chiedo come vi siete sentiti all'annuncio, insomma, del Nobel assegnato alla ricerca delle onde gravitazionali. È una cosa che stiamo ancora digerendo, perché non capita tutti i giorni di ricevere una notizia del genere. Molto bene, direi molto molto bene. Mi corregga se sbaglio, forse c'era anche qualche speranza che questo Nobel potesse toccare, oltre ai tre ricercatori americani che indiscutibilmente, insomma, sono i padri di questa branca, nuova branca dell'astronomia, poi ne parliamo, però insomma qualche speranza con l'esperimento Virgo c'era anche per ricercatori europei, forse anche italiani. Sì, sicuramente, in qualche modo tra i padri fondatori di questa branca dell'astronomia ci sono di buon diritto anche ad Alberto Giazzotto in Italia e Alain Brillet, ricercatore francese, che sono i padri fondatori dell'esperimento Virgo. Ma comunque siamo contenti, perché il riconoscimento al nostro contributo c'è stato in maniera inoppugnabile. Sì, infatti anche i tre ricercatori sono presentati dallo stesso committee del premio Nobel come persone che fanno parte di questo coordinamento LIGO Virgo, appunto. E allora vediamo un po' di che cosa stiamo parlando. Intanto, che cosa sono, ce lo ricordi, le onde gravitazionali? Sì, le onde gravitazionali sono un aspetto molto esotico di una teoria già di per sé esotica come la relatività generale di Einstein. Sono delle increspature del tessuto dello spazio-tempo. In pratica succede che quando c'è un cataclisma spaziale di dimensioni cosmiche, appunto, lo spazio stesso si dilata e si comprime, e questa perturbazione della metrica dello spazio si propaga e dà luogo alle onde gravitazionali. Ecco, diciamo che per provare a fornire ai nostri ascoltatori un'immagine mentale, possiamo immaginare un blocco di gelatina che viene scosso, no? E quindi sì, si propagano delle vibrazioni proprio che comprimono e distendono lo spazio stesso. No? Esatto, questa è la cosa fondamentale, è lo spazio che riceve queste perturbazioni. E tutto, anche quello che si trova immerso nello spazio, di conseguenza si allunga e si accorcia, no? Anche gli oggetti che abbiamo qui, da io un computer qui davanti, se passasse in questo momento un'onda gravitazionale, questo si accorcerebbe e si allungherebbe ritmicamente di una quantità assolutamente infinitesima. E qui veniamo alla seconda domanda, perché la ricerca appunto di queste onde nel tentativo di osservarle è durata 50 anni. La prima onda gravitazionale è stata rilevata il 14 settembre del 2015 da uno di questi esperimenti LIGO, causata dalla fusione di due buchi neri, quindi un evento assolutamente catastrofico, e da allora ci sono state altre tre rilevazioni. Come si fa quindi a rilevare una di queste onde? Come sono fatti questi esperimenti come LIGO e Virgo? E perché è stato così difficile? Ci sono voluti 50 anni prima di arrivare ai primi successi. Dunque, l'effetto delle onde gravitazionali è quello di comprimere e dilatare alternativamente due direzioni ortogonali dello spazio. Per cui, se lei immagina un cerchio di masse libere, quello che succede quando passa un'onda gravitazionale è che questo cerchio diventa un'ellisse i cui passi sono alternativamente nelle due direzioni. Come se lo si prendesse un hula hoop con le due mani e se lo si stringesse e tirasse, stringesse e tirasse, per capirsi. Esattamente. Okay. E se lei applica un sistema di misura a questo hula hoop, che è basato sostanzialmente su un laser estremamente pulito e sensibile, quello che ottiene è un interferometro che è in grado di rivelare appunto variazioni di questo genere. Voi in realtà misurate la, diciamo così, la distanza tra due specchi che si trovano a qualche chilometro di distanza con una precisione estrema. A 3 chilometri di distanza, con una precisione estrema. Di quanto? È una precisione di 10 alla meno 23, cioè 10 con 23 zeri. Quindi una cosa molto più piccola di un atomo, per capirsi. Molto più piccola di un atomo. No, un atomo è assolutamente enorme al confronto. Ecco, appunto. Tanto per farle un esempio, in modo da visualizzarle un po' di più il problema, è equivalente all'innalzamento del mare che lei avrebbe se versasse un bicchiere d'acqua nel mare. Oh, ok. Ecco, d'accordo. Ecco, quindi, insomma, queste onde gravitazionali, quando passano, è vero che allungano e accorciano gli oggetti, perché voi questo misurate con una tecnica che prevede l'uso del laser, che si chiama interferometria, senza entrare nel dettaglio, voi misurate l'allungamento e accorciamento di questi oggetti, ma questo allungamento e accorciamento è piccolissimo, abbiamo detto milioni di volte più piccolo del diametro di un atomo o qualcosa del genere. È inconcepibilmente piccolo, sì. E quindi ecco perché ci è voluto così tanto tempo. Quali sono le difficoltà nel tentativo di fare una misura di questo tipo? Ma innanzitutto i disturbi esterni, perché si rende conto che per misurare una variazione del genere lei si deve isolare da qualsiasi disturbo esterno. Anche le onde del mare qui a Livorno producono una variazione delle distanze che è estremamente più grande di quella che vogliamo misurare. E quindi quello che facciamo è isolare gli specchi, il laser e tutte le componenti critiche rispetto all'ambiente esterno. Quindi li appendiamo a dei giganteschi pendoli in modo che stiano buoni per conto loro e non siano sensibili a queste sollecitazioni esterne. Dunque, Chiumo, dicevamo che gli osservatori sono tre nel mondo in questo momento, due fanno parte dell'esperimento LIGO e poi c'è Virgo in Europa, che sono in grado di rilevare questi segnali. Proprio di recente è stato osservato per la prima volta uno di questi segnali da tutti e tre contemporaneamente gli osservatori. Questa è una grande novità, è molto importante. Perché tra due e tre cambia così tanto e che cosa cambia naturalmente? Il grosso cambiamento è quando ci aggiungiamo noi alla rete degli osservatori LIGO e che con tre punti lei può fare l'identificazione della sorgente dell'onda gravitazionale. Triangolando, noi abbiamo tre osservatori, ognuno dei quali registra anche un tempo di rivelazione e dalla differenza di questi tempi noi siamo in grado di risalire al punto del cielo da cui è venuta l'onda gravitazionale. Per esempio in questa tripla coincidenza che c'è stata il 14 agosto, la mappa delle possibili sorgenti senza Virgo era enorme, era tipo un terzo del cielo, con Virgo è diventata 60 gradi quadrati, che è ancora grande, ma comunque permette a altri strumenti di essere puntati, perché sapere da dove arriva l'onda gravitazionale consente ad altri strumenti astronomici, per esempio telescopi ottici, di puntare la stessa direzione e vedere che cosa si vede nell'ottico, appunto. E qui in qualche modo ci stiamo avvicinando all'ultima domanda che vorrei farle, perché sono stati osservati finora quattro eventi, tutti catastrofici: fusioni di buchi neri, forse fusioni di stelle di neutroni, ma è solo l'inizio di quella che probabilmente è una nuova branca dell'astronomia. Quali saranno i prossimi sviluppi di questa branca dell'astronomia, chiamiamola così, gravitazionale? Ma sicuramente col miglioramento della sensibilità dei singoli strumenti potremmo rivelare via via più segnali, e la speranza è di riuscire a trovare anche la controparte ottica, elettromagnetica del segnale. E questo in qualche modo ci darebbe una storia completa del fenomeno, perché le onde gravitazionali ci informano su quello che è successo prima che ci sia qualsiasi possibile emissione ottica, quindi l'antefatto, se vuole, di questo cataclisma, e l'emissione ottica poi invece ci dice come è andata a finire. D'accordo. Ecco, ma se ho ben capito, adesso ci dobbiamo aspettare che nei prossimi anni vengano sviluppati nuovi osservatori di onde gravitazionali, ognuno con caratteristiche diverse, come si fa quando con un'antenna si cerca di prendere una frequenza piuttosto che un'altra. Esattamente. Noi speriamo che ora che abbiamo rivelato le onde gravitazionali, anche gli altri progetti di rivelatore prendano un po' più corpo. E uno di questi, giusto per menzionarne uno, è quello fantascientifico del progetto LISA, certo. Che è una costellazione di satelliti che si dovrebbero lanciare in orbita intorno al Sole, e lì i bracci dell'interferometro non sono più qualche chilometro, ma qualche milione, certo, di chilometri. E questo renderebbe molto più sensibile questo sistema, no? Quindi potrebbero, esatto, percepire delle onde gravitazionali generate da fenomeni meno violenti, meno parossistici di quelli di cui abbiamo parlato. Ecco, addirittura c'è la speranza di osservare il Big Bang, praticamente. Il santo graal di questa nuova branca dell'astronomia è questo, quello di trovare il primo vagito dell'universo impresso nel fondo delle onde gravitazionali ambientali. Va bene, grazie allora Chiumo, e ancora complimenti per questo riconoscimento al lavoro che tutti insieme comunque come comunità state facendo. Grazie a lei e arrivederci. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani, parleremo del Nobel per la chimica. Buona serata.